Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Senti, io non so come dirtelo, ma ti devo licenziare. Finiscilo. Giochiamo al posto fisso. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci della nuova emigrazione. Apre la nostra puntata In bici senza sella, progetto cinematografico indipendente di Alessandro Giuggioli, 33enne produttore rientrato dall'Inghilterra, che ha deciso di chiamare un cast di registi esordienti per questo film sui giovani precari italiani. Più che un film, un manifesto generazionale. Abbiamo voluto raccontare con ironia la vita dei 30-40enni che, nati in un mondo di grandi aspettative, si ritrovano improvvisamente con le porte sbarrate, racconta Giuggioli, che ha realizzato il progetto attraverso l'innovativo metodo del crowdfunding. Tutte le info e il trailer del progetto online. E oggi, a proposito di innovazione, vi riportiamo in Silicon Valley. Lo facciamo con una delle due puntate speciali in programma a giugno. La prossima vi anticipiamo tra due settimane, quando voleremo fino a Londra. E la frase della settimana è copyright del premier Matteo Renzi: il capitalismo di relazione ha prodotto effetti negativi, il mondo imprenditoriale e della finanza devono andare verso un grado di apertura e trasparenza sempre maggiori. Il nostro paese può ottenere molto dalla globalizzazione, dobbiamo uscire da questo assurdo atteggiamento per cui la globalizzazione è sempre e comunque un problema, per cui la delocalizzazione è sempre e comunque una fuga e il capitale straniero qualcosa da respingere. Dobbiamo attrarre capitale straniero e sostenere le nostre aziende che vanno all'estero, così Renzi. E oggi vogliamo condividere con voi una riflessione che nasce dalla lettura di un recente articolo del giornale L'Inchiesta. Il titolo è esplicito e amaro: i cervelli in fuga ritornano, ma l'Italia li respinge. All'interno i racconti dei troppi ostacoli ancora esistenti per chi prova a ripartire nella penisola dopo un periodo all'estero. Sara dice: a Cambridge era il governo britannico che mandava offerte di lavoro all'università per chiedere ai ricercatori o agli studenti di candidarsi. In Italia non esiste un percorso chiaro e trasparente, è una cerchia chiusa e se vieni da fuori ti ritrovi spiazzato. Alessandro denuncia: il problema di chi rientra è che non si capisce come fare a cercare lavoro, non c'è una rete efficiente dei centri dell'impiego. Ben sintetizza Alessandra: per essere utili al paese non dobbiamo mai smettere di guardare le cose con distacco, se ci riabituiamo a quel che non va è finita. Rientrate allora e importate qui i modelli migliori, questo il nostro appello ai giovani talenti all'estero: non riabituatevi al peggio, a questa Italia relazionale, combattetela. L'Italia è il paese che invia più curricula per cercare lavoro all'estero, ma è anche il paese meno desiderato dai giovani stranieri per trovare un'occupazione. Con questa notizia apriamo le nostre news. La fotografia arriva da Eures, i numeri riportati dal Fatto Quotidiano parlano di una continua impennata nell'inserimento di curricula da parte dei connazionali, ormai 32.000 per emigrare lavorativamente. Battiamo anche Spagna e Romania, mentre solo 28.000 persone hanno inviato CV per cercare lavoro nella penisola, ben al di sotto di quelli ricevuti da Regno Unito, Germania e Svizzera. Per Banca Italia, nel biennio 2011-2013 il 4,5 per mille dei giovani lombardi 25-34 anni ha trasferito la propria residenza all'estero, un'incidenza superiore a quella registrata nel 2005-2007. Sempre per Banca Italia, anche i giovani umbri hanno accresciuto la propensione a trasferirsi all'estero. Ed Eures recentemente ha lanciato il portale Your First Eures Job, dedicato alla mobilità lavorativa degli under 35 in Europa per consentire loro esperienze di lavoro, apprendistato o tirocinio nell'Unione. Tutte le info su yourfirsteuresjob.eu. Italia penultima in innovazione in una classifica di 13 paesi resa nota da The European House. Siamo davanti solamente al Cile e ben lontani dalle prime tre: Svizzera, Corea del Sud e Singapore. A pesare sul sistema paese la mancanza di risorse finanziarie, la scarsa propensione a brevettare, il basso numero di ricercatori e la scarsa capacità di attrarre studenti stranieri. E nonostante l'elevata domanda di competenze digitali nel mondo del lavoro, in Italia si registra la percentuale più bassa su scala europea di giovani occupati nel settore digitale, il 12% contro il 16% della media comunitaria, lo denuncia la Commissione europea. Tuttavia, l'ecosistema delle start-up italiano si mostra vivo. Secondo il Sole 24 Ore, nella penisola nascono 6 imprese innovative al giorno, più 17% alla fine del primo trimestre dell'anno. Primeggia il settore dei servizi alle imprese per Aster, però nell'88% dei casi le risorse finanziarie arrivano da parenti e amici, banche e istituzioni finanziari intervengono raramente. La partecipazione di aziende industriali non va oltre il 4%, così come i finanziamenti da venture capital si limitano ad appena lo 0,4%. State progettando un'immigrazione all'estero e cercate un alloggio sul medio periodo, scambiandolo con un altro espatriato? Gogen, startup italiana fondata in Spagna, prova a rispondere al crescente bisogno di spazi abitativi per i giovani expats, grazie a un database di migliaia di iscritti in tutto il mondo. Ci spiega tutto Giuseppe Ciranna, fondatore di Gogen. L'idea di Gogen nasce quando cercavo di espatriare per la seconda volta. In quel momento, cercando informazioni su internet, io credevo che sarebbe stato ancora più facile trovare informazioni per il trasferimento, invece fondamentalmente mi sono trovato davanti a uno scenario difficile dove era molto molto difficile trovare informazioni sui trasferimenti di medio o lungo periodo, era stato tutto cannibalizzato dall'offerta turistica. Concretamente, come può essere d'aiuto questa piattaforma per giovani che appunto stanno per lasciare l'Italia e hanno bisogno di trovare un appoggio per un periodo quantomeno medio? Attraverso il nostro algoritmo mettiamo in comunicazione le persone che si trasferiscono in diverse città e diamo loro la possibilità di offrire e trovare quello di cui hanno bisogno per spostarsi, tutto in un solo posto. Quanti iscritti avete sulla piattaforma? Circa 6.000. Oggi ve lo abbiamo anticipato a inizio trasmissione, la prima di due puntate speciali che abbiamo deciso di regalarvi in questo mese di giugno, mese in cui si chiude la sesta stagione di Giovani Talenti. Tra due settimane saremo fisicamente a Londra per raccontarvi i nuovi emigrati italiani nella capitale britannica e lo faremo da un'ottica molto particolare. Oggi invece, sempre restando nel mondo anglosassone, ci trasferiamo, anche se solo idealmente, in Silicon Valley, il più importante laboratorio di futuro a livello mondiale. We've been on the run, driving in the sun, picking up for number one, California, here we come, right back where we started from. Oh, hustlers, grab your your shadow weighs a ton, driving down the 101, California, here we come, right back where we started from, California. E come non introdurre questo volo intercontinentale con destinazione San Francisco con il Phantom Planet? Bentornato a Roberto Bonzio, ideatore e anima di Italiani di Frontiera, in studio oggi con noi. Grazie Sergio, è sempre un piacere tornare da voi, avete anche seguito la mia avventura fin dall'inizio, l'avventura di un diversamente giovane, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Abbiamo anche novità importanti e tra poco spieghiamo, perché il motivo per cui abbiamo deciso di organizzare questa puntata speciale con te, Roberto, raccontando storie di talenti innovativi e lanciando messaggi di cambiamento al paese e ai giovani talenti in ascolto, è l'uscita del tuo primo libro, Italiani di Frontiera, per l'appunto edizioni Egea, che abbiamo anche qui in studio, un progetto che hai coltivato per anni. Allora, cosa ci racconta Roberto Italiani di Frontiera? Quale Italia soprattutto riporta, anche solo virtualmente, qui a casa? In estrema sintesi, che abbiamo tutti i numeri per fare quello che ci vuole, cioè che è fronteggiare con ottimismo il futuro, perché gli italiani, non solo all'estero ma anche in patria, ma comunque quelli che io ho incontrato a Silicon Valley, ha dimostrato che abbiamo veramente tutte le carte in regola, che vuol dire le competenze, la capacità, l'inventiva e lo spirito imprenditoriale per immaginare un futuro che va veramente costruito e immaginato, e quindi contemporaneamente fa capire che cosa dovremmo cambiare per riuscire a fare questo anche in patria. Tra poco ci arriviamo a queste istruzioni su cosa cambiare, però va fatta una premessa prima di iniziare questo lungo viaggio nel talento italiano in Silicon Valley, perché Italiani di Frontiera è in realtà una storia nella storia, la storia della tua famiglia che prende dei mesi sabbatici a un certo punto e si trasferisce in blocco in California. Ed è la storia anche che apre il libro, una storia che è davvero appassionante. Com'è stato il vostro impatto con gli Stati Uniti, anche a livello aneddotico? Prima di tutto, i primi problemi sono stati quelli di riuscire ad andarci, nel senso che è un paese in cui ci sono delle regole rigorose che sono fatte per essere rispettate, tra l'altro rispettate da persone che hanno cultura e mentalità provenienza completamente diverse, quindi non si sgarra perché devono essere rispettate. Il primo problema grosso per noi è stato riuscire ad avere un visto, già che io sono andato in aspettativa, ero giornalista Reuters, e andare con un visto non turistico senza avere un posto di lavoro, beh, è stata veramente una autentica impresa, ma ci siamo riusciti. Poi quando arrivi ti scopri appunto che ci sono una infinità di regole, ma che sono il contrario di quello che noi pensiamo di solito alle regole. Noi consideriamo le regole una specie di intreccio di burocrazia nel quale di solito si riesce a districarsi con la furbizia, cioè aggirando le regole. Questo modo di fare lì non funziona. Allora Roberto, questo è un programma che parla di giovani talenti italiani che hanno tenuto e tengono tuttora alto il nome del nostro paese nel mondo. Ne abbiamo raccontati tanti anche anche dalla Silicon Valley in questi 5 anni, in alcuni casi anche con te. Poche settimane fa sei stato, come ti capita regolarmente, in California. Allora, quali sono le ultime storie che hai potuto raccogliere in Silicon Valley? Beh, una storia che sono riuscito a mettere nel libro, perché poi le avevo incontrati anche di recente, però ormai sono lì già da qualche anno, è quella incredibile di marito e moglie di Emilio Billi e Antonella Rubico, che hanno questa startup che si chiama A3Cube, ed è veramente impressionante quello che loro stanno facendo. Emilio ha studiato per anni da grande esperto di informatica, era convinto che i supercomputer fossero realizzati studiando le dinamiche del cervello umano, poi si è reso conto che così non era, che quindi questo studio sulle reti e neuronali l'aveva fatto soltanto lui. Sulla base di questo studio lui ha creato un sistema che risolve un problema cruciale, ma veramente cruciale, con un impatto micidiale, e cioè una sorta di collo di bottiglia nel trasferimento di grandi dati ai server. Questa A3Cube ha generato una tecnologia che si chiama Ronnie Express e che ha un impatto micidiale. La stanno facendo da qualche anno ed è stato anche interessante la trasformazione. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Puntata speciale oggi col racconto dei talenti italiani in Silicon Valley. Con noi il giornalista Roberto Bonzo, autore del libro e del progetto Italiani di Frontiera. Continuiamo allora questo excursus con lui sul terreno dell'innovazione made in California. Giovani Talenti. E al di là delle storie, ci sono alcuni capitoli nel tuo libro che vanno al cuore dei problemi dell'Italia e forse grazie all'osservazione diretta della Silicon Valley ci puoi suggerire come superarli. Il primo si chiama Ostacoli tutti nella testa. Di quali ostacoli parliamo, Roberto? Quando tu vai a Silicon Valley ti rendi conto che prima di tutto non è un distretto industriale, ma è veramente un luogo della mente. Cioè si pensa in un certo modo e quindi ci sono le aziende che conosciamo, Google, Facebook, tutta la new economy, le aziende più rivoluzionarie, perché si pensa in un certo modo e non in contrario. Quando tu capisci gli elementi di questo modo di pensare e quindi vedere nel cambiamento sempre un'opportunità, accettare rischi estremamente alti sapendo che il fallimento è una tappa e quindi può essere tranquillamente una battaglia persa e una guerra che va vinta, e quindi tutto il sistema sta in piedi sull'accettare rischi alti, fallire e ripartire. È un posto estremamente competitivo in cui comunque si riconosce il successo degli altri. Poi c'è un grande antidoto all'immobilismo italiano, alla palude di un'Italia straordinariamente conservatrice. Gli americani lo chiamano think out of the box. Tu in italiano l'hai tradotto ragionare fuori dagli schemi. Cos'è nel concreto questo ragionare fuori dagli schemi e soprattutto qui è applicabile? Ma sicuramente è la parola chiave del mio progetto, perché è quello che tutti gli italiani che ho incontrato di età diverse a Silicon Valley riconoscono a se stessi e agli altri. Cosa abbiamo di particolare? Quello che Renzo Piano dice essere nani sulle spalle di un gigante, cioè la cultura che ci ha preceduto. Per questo nostro passato, questa nostra tradizione, noi abbiamo veramente qualche cosa di particolare, che vuol dire per esempio poter incrociare competenze diverse. Non troverai mai un mago del software americano che abbia una qualche competenza di cultura umanistica. Tu in un italiano puoi trovare delle competenze diverse, questa capacità di affrontare strade inedite a fronte di un problema. C'è chi mi ha detto che un ingegnere cinese o un indiano applicano una serie di protocolli e un italiano sceglie una strada diversa. Qual è l'importanza di questa strada diversa in un mondo in cui i protocolli invecchiano sempre più rapidamente? Immensa. Noi abbiamo questo, che è esattamente quello che ci vuole per sfidare il futuro con successo, ma contemporaneamente non sappiamo valorizzarlo in patria. Ispiratori e ispirati, mentori e giovani di successo, questo è il titolo di un altro capitolo. Allora ti chiedo, quanto funziona il passaggio di consegne generazionale, se vogliamo chiamarlo così, in Silicon Valley, anche a differenza dell'Italia? La prima, c'è un aspetto culturale che riguarda proprio una matrice culturale, che forse è legato un po' alla cultura protestante. L'idea che una parte del tuo successo si realizza nel trasferire quello che tu hai fatto sugli altri. Non è un atto di generosità, è un riconoscimento. Tu hai successo perché una parte di quello che hai fatto sai trasferirlo e lo vuoi comunicare agli altri. Contemporaneamente siamo assuefatti ad un sistema molto spesso gerontocratico in cui essere giovani è molto spesso un handicap. Quanti abbiamo incontrato che sono andati a Silicon Valley dopo aver raccolto in Italia pacche sulle spalle perché dicevano ah sì, bella idea, ma sei troppo giovane per... Ecco, questo anche nel corso degli anni. Lì questo assolutamente non c'è. Se posso aggiungere anche poi un'altra cosa che è molto importante, l'idea di cui parla molto spesso uno degli speaker che incontriamo, Vittorio Viarengo, oggi manager a Mobile Iron, che è quello che ha chiamato reverse mentoring. Cioè quanto è importante in un'azienda veramente innovativa saper far tesoro di quello che si impara dai giovani, e quindi un manager over 40 che si mette nella posizione non solo di allevare i più bravi, ma di sapere che ha delle cose da imparare sul futuro da loro. Ma il capitolo forse più interessante è quello che intitoli California, arrivederci, guarire le malattie dell'Italia. Non abbiamo purtroppo una settimana di tempo a disposizione per parlarne, e forse il tempo minimo, ma se dovessi in estrema sintesi riassumere da quali malattie dobbiamo guarire, ma soprattutto, Roberto, come dobbiamo guarire? Tu vai a Silicon Valley e capisci un modo di pensare. Capire questo modo di pensare ti fa comprendere quanto noi siamo abituati a dei modi di pensare che sono veramente assurdi. La prima cosa che penso che, e per questo credo che sia meritevole anche questa strada che stiamo percorrendo, di sentire parlare di talenti all'estero, è chiaro che per chi va all'estero diventa immediatamente lampante che in Italia si è assuefatti di modi di pensare che confliggono completamente con l'innovazione e con affrontare il futuro con successo. La prima cosa è appunto di considerare il successo di chi ci sta a fianco un pericolo, una minaccia e mai un'opportunità. La seconda cosa è di non saper collaborare, di avere una diffidenza, il pensare che un'idea va tenuta nascosta e non va condivisa e mai poi mai cerchi di non fare squadra. La terza cosa è mettere degli ostacoli all'accesso con le altre persone. Uno entra in un ruolo in azienda, si usa la segretaria come cerbero, come barriera, mentre una delle chiavi di Silicon Valley è che tu hai accesso, non dico che potevi parlare con Steve Jobs facilmente, però hai una capacità di eccezione, di essere ascoltato, di poter parlare anche con figure di primissimo piano, gente che ti risponde alle mail dopo poche ore, che resti semplicemente sbalordito. Con questa, favorire la circolazione di idee, premiare i migliori è cruciale e noi dovremmo imparare a farlo. Non ce ne vogliono le segretarie, non sono tutti dei cerberi, però effettivamente mi ricordo ancora, anni fa mi scrisse una persona dicendo il problema dell'Italia sono gli intermediari, no? Non si riesce mai ad arrivare alla persona. Non aveva poi così torto, purtroppo. Certo. Non abbiamo mai un approccio così diretto, certo. da punto a punto, da persona a persona, per scambiarsi delle idee e farle circolare. Io ne approfitto per dare il benvenuto, da lei il fuso orario è abbastanza pesante, a Irene Ciucci, Campaign Operations Manager per Boxfish a San Francisco. Ciao Irene. Ciao Sergio. Tu ciao cosa... Roberto. Ciao Irene. Tu cosa fai a San Francisco, Irene? Innanzitutto ho cominciato con un master all'Università di Berkeley e poi ho continuato nell'ambito delle start-up. Una start-up di 50 persone che ha varie sedi e che si occupa di marketing targetizzato. Quanti anni hai, Irene? Io ho 27 anni. Quindi sei giovanissima. 27 anni, però nonostante sono giovanissima, in realtà qui si è già in un ambiente in cui a 26 anni hai già delle responsabilità elevate, beni considerato, e una cosa che non mi sono mai sentito dire in Silicon Valley e nelle startup dove ho lavorato è: abbiamo sempre fatto così, cosa che invece mi sentivo dire in Italia. Questa è una cosa, se citiamo Roberto ti potrebbe parlare per due ore, giustamente, perché il dire abbiamo sempre fatto così va cancellato, io lo dico sempre, basta dirlo, cominciamo a pensare diversamente. Senti Irene, tutti pensano che la Silicon Valley sia un posto un po' al maschile, quasi come se la tecnologia fosse appannaggio solamente degli innovatori e non delle innovatrici. Allora, qual è la tua esperienza? Io penso che in parte è vero, in parte ancora si devono abbattere dei muri, nonostante si sia molto più avanzati di certe altre nazioni. Tuttavia io ho visto che se veramente si portano risultati, si va avanti, si studia, si portano dei dati al tavolo, anche se sei una donna, con tutti gli uomini vieni considerata, ecco. Grazie Irene Ciucci e in bocca al lupo per la tua esperienza in Silicon Valley e San Francisco. E abbiamo riadattato per Roberto Bonzo la nostra domanda di rito finale: quale consiglio daresti a un giovane con una bella idea di impresa innovativa che magari in questo momento si trova in difficoltà e non trova finanziamenti in Italia e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Provare ad andare a Silicon Valley non è ovviamente una piazza facile, però io credo che la cosa giusta sia guardare a lungo periodo e quindi non aver paura di mettersi in gioco, non aver paura di affrontare scenari globali, quindi guardare con ottimismo, rischiare e buttarsi. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un manager senior al Center on Regulation in Europe a Bruxelles, scadenza per il CV dopodomani, curricula marise.fernemont@cr.eu. Un engineering platform leader per Jaguar Land Rover a Gaydon in Gran Bretagna, scadenza per i CV 30 giugno, info su jaguarlandrovercareers.com. E infine un geoscientist in thermochronology and lab leader per l'Accademia di Scienze della Repubblica Ceca a Praga, scadenza per i CV 30 giugno, info su irsma.cas.cz. giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Dalla Silicon Valley americana torniamo in Europa, sbarcando in una capitale continentale che negli ultimi anni si è imposta per il suo elevato tasso di innovazione. Parliamo di Berlino, in gara con Londra per capacità di attrazione verso i nostri giovani talenti. Un volume descrive rischi e opportunità di un espatrio nella capitale tedesca. Simone Buttazzi, coautore con Gabriella Di Cagno di Tutti a Berlino, guida pratica per italiani in fuga, ci spiega i due motivi alla base del libro. Aiutare i migranti italiani che si vogliono trasferire in Germania, in particolare a Berlino. Il secondo è soddisfare una grande curiosità. In tempi di crisi si parla in maniera ossessiva e molto spesso arrotondata per eccesso della Germania, noi vogliamo cercare di riportare un pochino di fatti. Andiamo allora a scoprire questi consigli pratici. Quali sono quelli essenziali per trasferirsi nella capitale tedesca? Il nostro consiglio numero uno è registrarsi subito all'anagrafe berlinese, cioè essere visibili, trasparenti, presenti sul territorio. Altro consiglio molto importante è di interfacciarsi immediatamente anche con un tedesco zoppicante, con le autorità tedesche. Berlino è una città delle opportunità, lavorativamente parlando, secondo te? Allora, Berlino è una città dove ci si può esprimere in maniera completa e molto sfaccettata. Ci sono pochi soldi, è una città storicamente povera, l'immagine è molto sbagliato far collimare Berlino con la Germania. E a livello formativo consiglieresti di venire a studiare a Berlino? Beh sì, lo fanno molti, tra l'altro trasferirsi tramite un ente come può essere l'università è una delle soluzioni più semplici. Per maggiori informazioni Tutti a Berlino, guida pratica per italiani in fuga, edizioni Quadlibet. Un motivo per restare o tornare. Coinvolgere giovani scienziati, italiani e stranieri operanti all'estero in congressi di rilevanza internazionale che verranno organizzati in Italia nel corso del prossimo anno. Questo è l'obiettivo delle fondazioni di origine bancaria associate all'ACRI, che mettono a disposizione oltre 300.000 euro per finanziare attraverso bando uno Young Investigator Training Program, destinato a giovani ricercatori che lavoreranno presso gli enti di ricerca italiani. Saranno assegnati fino a 70 premi di ricerca dell'importo di 3.000 euro per giovani ricercatori dell'area europea e di 4.000 euro per giovani ricercatori dell'area Extra UE. Scadenza per la partecipazione 15 settembre. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese è Piani di Vita, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internettivo, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di giugno, quali sono i vostri piani per l'autunno? Andare via, restare qui e provarci o, più semplicemente, siete ancora in dubbio? Vi vedete in fuga, resistenti o globali? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.